E allora, buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, sono le 15 e 5 minuti primi, qui da Radio Onda Rossa sugli 87 e 9 della modulazione di frequenza. Oggi è mercoledì 9 di maggio e da questi microfoni inviamo gli auguri di buona giornata e buon ascolto per tutti e tutte, di buona libertà in particolare per coloro che ne sono privati. E dunque, cosa succede nell'universo carcerario? Se ne continua a parlare un po', in maniera anche un po' distorta spesso, però la cosa è che non pare decolli niente di positivo. Infatti c'è stato addirittura qualche giorno fa l'incontro tra il ministro della giustizia, ministro Severino, e il presidente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, quella Corte Europea che più volte ha emesso nei confronti dell'Italia, dello Stato italiano, del governo italiano, dei richiami, tirate d'orecchie, chiamiamole così, già perché la Corte Europea non ha potere nei confronti degli Stati aderenti alla Comunità Europea. Sul terreno giudiziario dei diritti dell'uomo non ha alcun potere, e abbiamo visto invece che ha molto potere sul terreno economico, e questo la dice lunga un po' tanto di quello che è poi questa Unione Europea. Perché è importante riferirci pure a questo fatto. Come vedete gli elementi sono poi tutti concatenati, intrecciati tra di loro. E allora sarebbe bene domandarci e discuterne pure in tutti gli ambienti, perché, come si dice, la politica riguarda tutte le azioni di qualunque soggetto umano e non solo dei governanti. Ecco, come mai l'Unione Europea si riunisce e impone, per esempio, alla Grecia, adesso anche all'Italia, altri paesi, di fare restrizioni, diminuire gli stipendi, i salari, mandar via, come è successo in Grecia, migliaia di persone, cacciarle via dall'impiego pubblico per sanare i conti, e poi invece sul terreno che dovrebbe essere più importante, ad esempio quello dei diritti umani, vi è una Corte Europea con personaggi anche importanti, e però questa non ha nessun potere nei confronti degli stati, quindi sul piano economico, monetario soprattutto, hanno potere di imporre i famosi lacrime e sangue che distruggono la vita di centinaia di migliaia di persone. E invece sul problema dei diritti, della salvaguardia dei diritti, che poi significa quello che succede nelle carceri, nei CIE, nelle celle di sicurezza, ovunque diciamo le persone sono prese in consegna dalle forze dell'ordine, la Corte Europea non può fare nulla, può fare solo dei richiami verbali, dice, e questi ne fa circa 3-4 l'anno nei confronti dell'Italia, un po' di meno nei confronti degli altri paesi. Nei confronti dell'Italia ha fatto diversi richiami e può al massimo mettere delle multe che non sono nemmeno molto salate, che lo Stato italiano paga tranquillamente, tanto sono soldi nostri. Quali sono le multe che fa spesso la Corte Europea nei confronti dei governi italiani? Per esempio quello di usare l'isolamento è ritenuto una tortura, cioè un trattamento degradante, non rispettoso dei diritti umani, e quindi che non va usato. In Italia invece si usa molto, poi vedremo ancora alcuni aspetti allucinanti, non solo l'isolamento, ma l'isolamento con pestaggio annesso. Sono uscite delle intercettazioni telefoniche nel carcere di Assi, è venuto fuori, già ne avevamo parlato, però man mano questo vaso di Pandora mette in luce delle vergogne spaventose. Comunque non ha, diciamo, la Corte Europea dei poteri, ha delle tirate d'orecchie, e per esempio appunto l'isolamento non si dovrebbe usare. Quello che è l'isolamento giudiziario, quando una persona viene immediatamente arrestata e quindi dovrebbe rimanere non in contatto con gli ambienti esterni, lì si può fare, dicono alla Corte Europea, un isolamento di carattere giudiziario, ma non un isolamento fisico. Basta appunto che i controlli vengano fatti adeguatamente. E vabbè, invece quindi c'è stato questo incontro tra il presidente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e vi dico pure come si chiama, Nicolas Brazza, o Brazzano, non so come si pronuncia, si è incontrato col ministro della giustizia Paola Severino e ha chiesto esplicitamente che cosa sta facendo l'Italia. Aveva tutto il dossier Italia, che è uno dei più grossi, anzi pare che sia il più grosso per i 27 stati dell'Unione Europea. E ovviamente dossier grosso significa tutte mancanze, inadempienze, critiche. Gli diceva, rispetto a quelle critiche fatte, 5-6 critiche ogni anno, quindi che hanno tirato fuori, hanno fatto questo dossier, che cosa intende fare questo governo per mettere, diciamo, in regola la condizione dei detenuti? Il sovraffollamento è la prima cosa che dice, i metri quadrati e i metri cubi d'aria non sono sufficienti per ciascun detenuto, abbiamo visto sono meno della metà di quelli che vengono riservati agli animali d'allevamento. Gli animali d'allevamento hanno per legge circa 7 metri quadrati in media ad ogni, per ogni animale d'allevamento. In Italia abbiamo 3 metri e mezzo a persona di metri quadrati calpestati. Viene da ridere, perché semplicemente per non mettersi a piangere, ma è chiaro che la situazione è di una dramma, di una violenza spaventosa. E poi c'è qualcuno che parla di violenza, questa è la violenza più, la peggiore in assoluto, quella che appunto fa lo Stato nei confronti di una parte dei cittadini. Dunque, Paola Severino, di fronte al Presidente della Corte Europea, non ha saputo dirgli altro che di questo: stiamo ipotizzando di rendere più snella e più veloce la procedura. E poi le procedure, perché sapete che la giustizia ha questi tempi lunghissimi, ha detto anche che vogliamo, il Ministro della Giustizia, vogliamo far ricorso alla mediazione civile e commerciale per diminuire gli incartamenti sul tavolo dei tribunali, quindi togliere tutto quello che è le sanzioni amministrative, quelle commerciali, la mediazione civile, il contenzioso in materia previdenziale, per togliere tutta questa massa di processi nel tribunale in modo che renderli più snelli. E poi ha detto che appunto rispetto al carcere, nodo particolarmente segnalato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, il fatto della velocità di trasmissione tra i vari organi giudiziari per facilitare, per esempio ci sono delle scarcerazioni che vengono comunicate giorni dopo, settimane dopo, ci stanno persone che oltre che fare il carcere, quello segnato in dispositivo di sentenza, se ne fanno anche di più perché le comunicazioni ritardano, diciamo, non si capisce, in era telematica sembra assurdo. E poi anche su questo non c'è sanzione, non è che se uno si fa tipo 7 giorni di galera in più poi qualcuno responsabile di questo ritardo viene redarguito, rimane tutto così. E va bene, poi anche il problema ha illustrato il piano delle carceri, quello per ridurre il sovraffollamento, quello delle porte cosiddette e le porte girevoli, cioè che le persone che entrano in carcere per due o tre giorni dovrebbero invece rimanere o agli arresti domiciliari oppure nelle camere di sicurezza delle questure o dei commissariati o delle caserme dei carabinieri. E quindi però abbiamo visto tutte queste cose che ha detto, alcune sono promesse, però per le promesse stanno là. L'unico fatto concreto è questo piano carceri, rispetto al quale non ha ridotto se non di 100-250 persone, mi pare che diceva la rilevazione di Antigone, e il personale. Ora, su 69.000 persone nelle carceri, ridurre di 200-300 persone fa abbastanza ridere. Insomma, praticamente un nulla di fatto è stato. Ora, qui è un'agenzia che ci racconta di questo incontro, non ci dice dopo il Presidente della Corte Europea, questo Nicolas Brazza, che cosa ha detto. Vabbè, non è che ovviamente queste sono persone che si fanno intervistare, poi scrivono, tornano nel proprio ufficio, scrivono delle relazioni che mandano a loro volta al governo perché invece provveda. È così, perché è stata impostata in questo modo la Corte Europea dei diritti dell'uomo. Perché, e qui sarebbe bello pure fare la storia, quando si è fatta l'Europa questa cosa non la volevano nemmeno fare, ha detto ma no, noi facciamo solo una cosa per l'euro, per i soldi, per i mercanti, è una cosa da mercanti, da cialtroni, l'Europa è stata fatta da cialtroni, mercanti, speculatori, gente che gioca in borsa, questa gentaccia qua. Quando qualcuno ha detto facciamo pure una Corte Europea dei diritti dell'uomo, tutti hanno detto oddio che palle, che soliti, per dire, perché non gli interessava assolutamente questa cosa, è stata una porcheria fare questa Unione Europea per come è stata fatta. Io non discuto adesso, che sarebbe altra discussione se potrebbe essere giusto o meno fare un coordinamento di tutti gli stati. Però è chiaro che quando sull'euro erano tutti attenti e hanno fatto tutto quello che c'era da fare, addirittura imponendo una limitazione del potere dei governi rispetto alla Commissione Europea economica, mentre invece sul piano dei diritti umani non contano assolutamente niente la Corte Europea. Invece sarebbe stato opportuno dare poteri a questa Corte Europea, visto che si è fatta l'Europa, perché alcune situazioni carcerarie o giudiziarie sono veramente al di sotto dei limiti della decenza, quella italiana, ma non solo, ci stanno anche altre situazioni carcerarie, la stessa Grecia, che avete visto come è stata pronta l'Unione Europea a entrare in merito alle questioni economiche, gli ha detto devi fare questo, devi fare questo, devi fare quell'altro, ma non gli ha detto, ad esempio, come deve tenere le carceri. Nelle carceri greche sono più o meno devastate come quelle italiane, quindi come vedete c'è questo elemento di cui i giornali non parlano mai di queste cose. Ecco, e sarebbe bene invece parlarne, perché appunto questa notizia è arrivata perché quando un personaggio importante europeo viene a incontrare un personaggio del governo italiano, è chiaro che il corrispondente dell'agenzia che sta lì davanti alla porta, diciamo, del ministro della giustizia nota questa cosa e fa l'articolo questo che vi abbiamo letto. Però poi non è che a seguito questa notizia, non è che poi qualche giornalista di qualche giornale dice andiamo a vedere che cosa, le conclusioni, quali sono le valutazioni che dà la Commissione Europea rispetto alle misure che ha fatto il governo italiano o quelle che dovrebbe fare, e così rimane così tutto a taraluce e vini, come si dice. Ed è la cosa invece abbastanza grave, perché da quanto si capisce da questa agenzia Scarra, che ci dice solo di questo incontro, in realtà sembra che rispetto, poiché noi sappiamo tutti i precedenti, cioè tutto il dossier che la Commissione Europea dei diritti dell'uomo ha nei confronti dell'Italia, uno dei dossier più voluminosi, rispetto ai richiami che ha fatto, è chiaro che non sarà stato contento il Presidente della Corte e probabilmente farà altri richiami al governo italiano, ma di questo non ne avremo sicuramente notizia. E allora, qualcuno domanderà, no? Qualcuno domanderà, ma come mai questa volontà di non diminuire la presenza in carcere, no? Eppure, perché questa pervicacia di non voler allentare il sovraffollamento, visto che tutti gli altri piani, no? La costruzione di nuove carceri, a parte che i soldi manco ci stanno, e poi sono tempi decennali per allestire nuove carceri. Quindi il problema è perché questa volontà, questa durezza, questa pervicacia di non voler allentare la morsa della repressione del carcere. E beh, questa cosa non è casuale, non è perché... Si potrebbero fare tante cose, amnistia, indulto, depenalizzazione, perché non si fanno? E non si fanno per un semplice motivo, perché appunto bisogna vedere qual è il ruolo del carcere oggi nella società. Se è vero, come è vero, come dicono quasi tutti gli studiosi del mondo carcerario, che il carcere non è altro che lo specchio della società, questa cosa è vera sempre, e è vera ancora di più, quindi ancora più uno specchio reale, in situazioni di crisi come questa che attraversiamo adesso, no? Di difficoltà economiche, di malessere generalizzato delle persone. Perché? Perché appunto il carcere non è altro che lo spauracchio, peggiore spauracchio, che viene sventolato sulla faccia della gente per farli accettare le pessime condizioni di vita. Semplicemente è questa la definizione del carcere. Il carcere è lo strumento, come una volta si metteva, quando c'erano, nei tempi antichi, raccontano le ballate popolari o anche i romanzi, nel 500-600, negli anni 600, ancora 700, in molti paesi europei, quando c'erano le sommosse, i famosi tumulti di massa, e i signorotti sventolavano la forca davanti a questi, per dire attenzione che qui ne prendiamo una decina e poi li impicchiamo. Sventolavano proprio non loro stessi, ma gli scagnozzi dei signorotti dai loro balconi, di fronte alla folla tumultuosa che veniva sotto a protestare, sventolava appunto la forca, no? Come per dire attenti, che questa è la stessa cosa, si fa adesso in maniera meno così visibile, ma è la stessa cosa, si sventola il carcere. E quindi il carcere ha questa funzione deterrente, di paura, di indurre paura. D'altronde il governo attraverso la paura, il governo della paura, è uno strumento fondamentale del governo degli stati moderni. Su questo, come sapete, ormai è stato più volte riscontrato, i governi attuali riescono a governare non attraverso il consenso, bensì attraverso la paura. E il carcere assume. Allora, è chiaro che mantenere un carcere dove si sta male, col sovraffollamento, del quale si parla adesso, perché si parla del carcere dove si sta male, dove c'è il sovraffollamento, dove la gente si suicida, dove si prendono anche le botte e tutte queste cose qui, perché se ne parla? Perché i funzionari del ministero inducono i giornali anche a scrivere, a parlarne? Perché chiaramente così assume sempre più questo ruolo di deterrente, cioè di paura, di indurre paura, no? Se uno dicesse mettiamo in una situazione in carcere si sta benissimo, la gente se ne sta spaparanzata a vedersi la televisione, gode, mangia bene, gioca, fa attività sportiva eccetera, uno direbbe vabbè, tutto sommato non ho un gran paura di andare a finire in carcere, quindi quella funzione posso provare a fare le mie attività economiche non legali, anche se vado in carcere non succede niente. Invece questo livello della paura, se voi ci fate caso, di fatti i giornali parlano dei suicidi in carcere, delle botte in carcere, che in carcere si sta male, si soffre, a volte anche, come dire, aumentando, disegnando a tinte forti una situazione che è comunque sì degradata e che si sta malissimo in carcere, però ne sottolinea ancora di più la bruttura, proprio perché la paura è un elemento fondamentale. Paura perché indurre paura alla gente di sopportare la condizione esterna di vita, di disoccupazione, di peggioramento delle proprie condizioni, di malessere, perché dall'altra parte c'è il carcere. Se uno non accetta in silenzio, l'alternativa è il carcere. Quindi questo strumento, quindi il carcere deve mantenere questo faccia brutta. È come quando ai bambini si fa vedere l'uomo nero, che insomma, gli si descrive un mostro che lo aggredirebbe quando il bambino o la bambina trasgredisce gli ordini dei genitori. Lo stesso motivo qua. In situazioni in cui peggioramento delle condizioni di vita è all'ordine del giorno per tutti e per tutte, quotidianamente si peggiora, no? E chiaramente il malessere produce rabbia, incazzatura della gente che vorrebbe quindi far qualcosa. È chiaro che ci vuole lo spauracchio per tenere a freno, secondo loro, ovviamente rimostranze, i conflitti, le lotte delle persone. Quindi il carcere rimane così. Si potrebbe fare tante cose, e si potrebbe fare tante cose al punto che alcune persone, magistrati, parliamo di magistrati, che pure avevano assegnato al carcere una funzione, come dire, di correzione delle storture della società. È un personaggio di questo tipo, no? Gherardo Colombo, che credo tutti conoscerete, è uno di quelli cosiddetti magistrati di punta durante il periodo di Mani Pulite, di Tangentopoli, quel periodo chiamato o Mani Pulite o Tangentopoli, fate voi, comunque tutti ci capiamo a che cosa ci si riferisce. Ebbene, lui insieme agli altri magistrati, ricordate, facevano questa battaglia perché l'Italia era sommersa di corruzioni che andavano da livelli altissimi, però poi scendevano anche in mezzo alla società, e volevano correggere questa ondata di corruzione attraverso il sistema penale. Quindi hanno cominciato a incriminare, processare, cioè, tantissime persone. Questa Tangentopoli si chiama, no? Questo credevano che attraverso il carcere si potesse correggere delle storture della società, perlomeno questa della corruzione. Dopo il periodo, lo stesso Colombo e altri hanno detto che si sono resi conto che anche in quel caso il carcere non è servito, perché ci sono dei dati, ed è molto bello seguire, sono usciti diversi articoli su questo argomento. Proprio Gherardo Colombo ed altri hanno detto, aiutati da alcuni di quelli che fanno le indagini, le inchieste, che il livello di corruzione che c'era in Italia durante il periodo chiamato appunto Tangentopoli è inferiore a quella attuale, ossia quindi l'uso della giustizia, del sistema penale, del codice penale, del processo, dell'incriminazione, in qualche caso anche del carcere, anche se pochissimi sono andati in carcere di quei personaggi inquisiti da Tangentopoli, processati e condannati da Tangentopoli, comunque qualcuno, però voglio dire, quel sistema si pensava di correggere la stortura della corruzione in questo paese, abbastanza diffusa negli anni 80 e 90, attraverso questa opera di Tangentopoli, quindi usando il codice penale e il carcere. Lo stesso Colombo, riflettendo insieme ad altri, ha detto: ci siamo resi conto che non è quello uno strumento per correggere, tant'è vero non ha corretto niente, anzi ha peggiorato la situazione, perché i dati, per fortuna, sono poi alla fine quelli che ti rappresentano la realtà, i fatti hanno la testa dura. Ebbene, il livello di corruzione che c'è oggi, questo è stato fatto circa un anno fa ovviamente, ma siamo lì, un anno fa c'era un livello di corruzione molto più alto di quello che c'era nel periodo di Tangentopoli, vuol dire che questo strumento non funziona, e questo l'hanno riconosciuto stessi magistrati, persone coerenti, che hanno detto: noi pensavamo che il carcere, il codice penale, inquisire le persone, no? Fare l'indagine, l'inchiesta, processarle, condannarle, potesse servire a frenare questo fenomeno, non funziona, non è questa la strada. Non serve lì e non serve in nessun altro posto. Allora lo stesso Gherardo Colombo interviene sulla situazione di carcerari adesso e dice che il carcere praticamente non serve a nulla, serve solo a far del male alle persone, e difatti ci vorrebbe un'amnistia. Quindi lui spezza una lancia in favore dell'amnistia. Pensate, un magistrato di quelli che appunto ha imbastito decine di processi, dice che adesso il carcere, dice proprio queste parole, ve le leggiamo perché sono quanto mai illuminanti. Qualche mese fa ero perplesso e pensavo, l'intervista di qualche giorno fa, i primi di maggio, qualche mese fa ero perplesso e pensavo che sarei stato d'accordo con l'amnistia a patto che fosse condizionata ad una assunzione di responsabilità. C'è in giro un progetto, un'amnistia, di alcuni che dicono l'amnistia ovviamente è un progetto che diceva che l'amnistia si può dare a quelle persone che riconoscono la propria responsabilità e anche sono d'accordo a risarcire il danno che hanno fatto. Questa era una proposta di legge. E lui dice appunto: pur ero d'accordo che l'amnistia potesse essere messa in atto a patto che fosse condizionata ad un'assunzione di responsabilità di chi aveva fatto, di chi stava in carcere, per poi farlo uscire. Ma ripensandoci, sono arrivata alla conclusione che l'amnistia deve essere deve essere un'amnistia, punto e basta. in carcere su oltre, continua Colombo, su oltre 67.000 persone, solo 10 o al massimo 15.000 sono effettivamente pericolose. Tutti gli altri e tutte le altre potrebbero uscire, non sarebbero un problema per la società. Si vorrebbe riportare il numero complessivo dei detenuti tranquillamente a quello della capienza regolamentare, ossia 40.000, senza mettere a repentaglio la sicurezza generale del paese, della società. Sono arrivato a questa conclusione perché vedo che parlando non cambia nulla. Si legge di suicidi che non fanno quasi più notizia, la situazione non soltanto non migliora ma tende verso un peggioramento continuo. Si potrebbe dunque modellare l'amnistia perché sia applicata casomai soltanto ai reati meno gravi, quindi che so, quelli fino a 8 anni, in modo per far uscire la gran parte delle persone che ha condanne piccole. E poi dice, il tema della rieducazione, messa tra virgolette, anche lui comincia a dubitare di questo problema che il carcere rieduca, e per fortuna, fa sempre piacere quando qualcuno scopre la verità, la rieducazione messa tra virgolette, cioè della riabilitazione delle persone alla vita insieme agli altri, potrebbe essere affrontato in modo più dilazionato. La situazione di fatto, che appunto non migliora quella del carcere, che mi ha indotto a far cadere questa sorta di condizione preliminare che prima vedevano, cioè no, l'accettazione della responsabilità della colpa e la volontà di risarcimento. Dice, questa cosa non ha più senso, si può fare comunque, importante adesso è svuotare, perché non serve a niente il carcere. Bisognerebbe che si prendesse un'iniziativa concordata da uno schieramento molto ampio, eccetera, eccetera, perché chiaramente sapete che perché un'amnistia possa passare, così come un indulto, è necessario i 2/3 degli aventi diritto in Parlamento, cioè tutti i parlamentari, non solo quelli presenti, ma tutti i parlamentari, i 2/3 di tutti i parlamentari aventi diritto al voto devono potersi esprimere per l'amnistia o per l'indulto, altrimenti non può passare. Quindi questo per dire che anche colui, una persona che credeva nella funzione diciamo del carcere, per correggere in quel caso la struttura della corruzione, si è reso conto che non serve a quello. Quindi dice, è inutile tenere il carcere in queste condizioni di mera sofferenza, e quindi convierebbe fare un'amnistia, punto e basta, fare uscire la gente perché non ha nessun valore. Ecco, questo è chiaro che il carcere, quindi tutte le persone che onestamente fanno i conti col carcere si rendono conto che il carcere non serve a niente. Per quello che dice, cioè non serve a rieducare le persone, a riabilitarle, a reinserirle nella società, al contrario, separa le persone. E allora, ancora la domanda di prima, nonostante questa cosa che ormai è abbastanza la verità conclamata, perché sono d'accordo tutti, rimane, continua a rimanere il carcere? Walking on. by the rivers, through the streets, every corner. Abandoned too soon, set down with due care. Don't walk away in silence. Don't walk away. Di questa cosa, del fatto che il carcere non serve a niente e che, diciamo, il governo, la politica, quindi i parlamentari, quindi le classi dirigenti, quelli che comandano in questo paese, non hanno nessun interesse vero a migliorare, a cambiare la situazione del carcere, se ne sono resi conto i detenuti, forse meglio di noi. La consapevolezza quindi c'è, come desumiamo questo fatto? Non è che siamo andati a intervistarli, ma c'è un dato molto chiaro. Ci sono state le elezioni in questa tornata elettorale in alcuni comuni in questo fine settimana, di cui adesso sui giornali si discute chi ha vinto, chi ha perso, eccetera. Bene, laddove si votava, se non si votava in tutte le città, no? Tra le grandi città, la più grande dove si votava era Palermo. Bene, a Palermo... alcune altre cittadine, città, Agrigento e Trapani non sono cittadine, sono alcune altre città della Sicilia, si votava per il rinnovo dei consigli comunali in questi paesi e del sindaco. Bene, al carcere di Palermo, a Luciardone, su 600 detenuti in 5 soltanto hanno votato, tra questi 5 voti 2 schede bianche, quindi su 600 persone solo 3 hanno espresso il voto. Meglio ancora, o peggio se volete, al Pagliarelli, l'altro carcere, dove, sempre di Palermo, dove su 1282 persone detenute i votanti sono stati 0, nessuno è andato a votare. Sapete che i detenuti che hanno in attesa di giudizio possono votare, nelle carceri normalmente vengono allestiti delle urne elettorali, perché sia tutti quelli in attesa di giudizio possono votare, perché finché uno è stato condannato non è che gli sono stati tolti i diritti, i diritti civili, e poi anche quelli condannati, non tutti quelli condannati hanno appunto la perdita dei diritti civili. Quindi 600 potevano votare a Luciardone e hanno votato in 5, di cui 2 schede bianche. Al Pagliarelli, che è casa circondariale, quindi sono in attesa di giudizio di più, 1282, 0 votanti. Agrigento e Trapani, su 911 carcerati, anche qui nessuno ha votato. E insomma, sarebbe divertente vederlo, per esempio, se quando ci saranno elezioni a Roma, a Napoli, a Milano, a Torino, nelle altre grandi città. Non ci sono state, quindi non abbiamo questo elemento, però queste grandi carceri siciliane, insomma, il messaggio che hanno lanciato i detenuti è molto semplice: non ci fidiamo più delle vostre chiacchiere, non crediamo che voi avete la volontà di migliorare o di cambiare la situazione in carcere, non ci venite a raccontare frottole, di voi non ci fidiamo più. Discorso chi è? Più chiaro di così non c'è da fare indagini, questo è un test di quelli, come dire, che non hanno altra lettura se non questa, e dunque i detenuti lo sanno. Adesso sanno che appunto queste cose che diciamo noi tutti i mercoledì li sanno benissimo i detenuti. Il problema è che si tratta adesso di trasformare questa consapevolezza negativa, cioè la consapevolezza che da parte del governo, delle forze di parlamentari, un po' tutte, non c'è nessuna volontà di affrontare seriamente il tema carcere e migliorare le condizioni e andare verso una riduzione delle presenze. Questa consapevolezza negativa si dovrebbe affiancare una consapevolezza positiva, cioè visto che da là non ci possiamo aspettare nulla, e questa è la consapevolezza, è chiara, questi numeri più chiari di così, insomma, zero, su cui in tutto abbiamo visto, abbiamo analizzato 3.000, circa 3.000 persone andate al voto, ci sono state circa 5 schede soltanto, di cui 2 schede bianche, quindi immaginate, no? Più chiaro di così si muore, 3 persone su 3.000, insomma, una percentuale. Bisogna, appunto, il problema è trasformare questa consapevolezza in negativo in consapevolezza in positivo. I detenuti, come tutte le altre persone, anche diciamo che soffrono pesantemente questa situazione di oggi, possono fare qualcosa, certo unendosi tra tutti, quindi è chiaro che nelle carceri sarebbe opportuno che riprendano movimenti di protesta, ovviamente tranquilli, cioè si tratta di partire intanto per individuare dei percorsi, individuare degli obiettivi possibili, cominciare ad aggregare gente, dare fiducia che lottando insieme si può cambiare, come è successo in altri periodi, si può cambiare la condizione, si può migliorare, si può andare avanti, si possono ottenere tante cose, soprattutto poi lottando insieme chi sta dentro e chi sta fuori, perché quelli che stanno fuori, una parte di quelli che stanno fuori e stanno agli ultimi posti della scala della società, entrano in carcere poi, così come quelli stanno dentro prima o poi escono, c'è questo interscambio dentro fuori, non è che chi sta in carcere sono delle persone, ci stanno sempre quelli, ci sta sempre quel numero 60-70 mila, ma le persone cambiano, no? Esce Tizio, entra Caio e così via, quindi unendo le persone che stanno fuori e le persone che stanno dentro, quelli che appartengono alle classi più basse, più sfruttate, più malmesse, che non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena, quindi devono sono costretti a vivere di espedienti, spesso appunto espedienti fuori della legge, quindi rischiano la galera e spesso ci capitano, ecco, mettendo insieme delle proteste si può fare molto e cambiare molto, e questo è il compito che dobbiamo assolutamente mettere in piedi. E allora ci dispiace interrompere, ma il tempo scorre, sono le 15:46-47 quasi, dunque ci avviciniamo verso la chiusura. Ed è importante seguire due fatti che sono successi, che rappresentano un po' la cronaca di quello che abbiamo detto fino adesso, di questo peggioramento, degrado continuo del carcere e la non presenza di un percorso invece diciamo, di miglioramento da parte istituzionale, è un peggioramento a cui dobbiamo mettere un freno, e lo possiamo mettere soltanto con quanto ci dicevamo poco fa, ossia organizzando delle proteste, facendo sentire la propria voce fuori e dentro. Due fatti sono successi in questi primi giorni di maggio. Allora, uno, una persona, ricordate, tempo fa ne abbiamo parlato, perché è venuto fuori che al carcere di Asti è stato un caso, perché nel carcere di Asti alcune guardie carcerarie, il telefono delle guardie carcerarie del carcere di Asti era stato messo sotto controllo dalla magistratura perché c'era un sospetto di traffico di stupefacenti. Le guardie portavano in carcere degli stupefacenti, c'erano già state delle inchieste in corso, e quindi la magistratura ha messo sotto intercettazione il telefono di alcune guardie. Da lì è venuto fuori, oltre ad avere elementi in più di questo traffico prevalentemente di cocaina che le guardie portavano dentro ai detenuti facendoselo pagare profumatamente, ma anche il fatto che queste guardie, parlando tra di loro, raccontavano dei pestaggi, e quindi è venuto fuori questo film dell'orrore, lo dicono stesso gli inquirenti, che è venuto fuori che faceva, c'era proprio questa, una squadretta di 5 guardie che facevano dei pestaggi, soprattutto la sera si ubriacavano e poi ovviamente facevano pestaggi spaventosi, portando la gente in isolamento, in queste celle di isolamento famigerate, spaventose. Ora, e da qui è scattata quindi l'altra, addirittura delle celle spaventose. Le celle di isolamento, c'era chiamata la cella invernale, dove era una cella che non aveva i vetri, le finestre non avevano vetri, quindi messi in queste celle di isolamento, il detenuto di notte a temperatura scendeva sotto zero, perché non c'erano ad Asti, che tra l'altro di notte d'inverno senza vetri, immaginate che c'era a rischio veramente di far rilasciare la pelle. E invece quella, la cosiddetta cella estiva, era la cella dove invece d'estate si scoppiava di caldo, si arrostiva vero e proprio. Vabbè, quindi queste proprio violenze, torture, eccetera eccetera. Il problema è che l'inchiesta è scattata, oltre che per il traffico di droga, anche per pestaggi, maltrattamenti eccetera, però essendo passato trascorso tempo da questi fatti, nelle guardie non si è potuto operare nei confronti dei secondini, polizia penitenziaria, di queste qua individuate, perché il reato di maltrattamenti ha un periodo di prescrizione molto breve, quindi il reato era prescritto. L'articolo che sta sul Corriere della Sera, dall'altro, dice che la cosa, appunto, è potuto andare in prescrizione questo fatto, perché era passato del tempo, in quanto in Italia non c'è il reato di tortura ma solo il reato di maltrattamenti, e se ci fosse stato il reato di tortura, come anche lì chiede l'Unione Europea, che venga messo il reato di tortura nei confronti delle forze di polizia, delle forze dell'ordine pubblico, per maltrattamenti nei confronti di chi viene tenuto in loro custodia. Quindi il reato di tortura scatta soltanto quando una persona viene tenuta in custodia da forze dell'ordine. Se il maltrattamento viene fatto in queste condizioni, cioè una persona tenuta in custodia, quindi che non ha libertà di movimento, se viene maltrattata, il reato è tortura, perché chiaro il concetto, no? Se voi pigliate una persona per strada e la maltrattate, questa persona ha una possibilità di urlare, di strillare, di scappare, quindi ha una sorta di libertà di reagire e anche di sottrarsi al maltrattamento. Se una persona è tenuta in custodia dagli agenti di pubblica sicurezza, carabinieri, finanza, quelli che sono, è chiaro che non ha queste possibilità, viene chiusa in una cella e lì il maltrattamento assume, quindi per definizione ormai universale in tutto il mondo, quando una persona è rinchiusa in un posto e le forze dell'ordine la tengono in loro possesso, se esercitano delle pressioni psicologiche o fisiche nei confronti di questa, scatta il reato di tortura. In tutti i paesi c'è questo reato, che ovviamente ha una prescrizione molto più lunga e una sanzione maggiore nei confronti di queste forze dell'ordine. In Italia non c'è, e quindi il reato di maltrattamenti, come è successo per i fatti di Genova, in cui tutte le cose che casomai adesso vedete nel film, che fa rabbrividire tutti e balabà balabà balabà, però non ha sortito effetto, ma non perché uno vuol mandare le guardie in galera, però per capire che non è vero che la legge è uguale per tutti, manco qui. In realtà chi fa quelle brutture, pesta, massacri, eccetera, in questo paese per questa legislazione molto, molto abietta, schifosa, il paese che ha leggi peggiori del mondo, in Italia ormai credo che siamo veramente all'ultimo posto, non c'è assolutamente, ne risulta, se sono appartenenti ai forze dell'ordine, ne risulta completamente diciamo non puniti, invece vengono poi puniti i manifestanti. Questa è la realtà italiana, una realtà che bisognerebbe urlare tutti i giorni nelle piazze. E vabbè, insomma, quindi qui si lamenta anche il Corriere della Sera, però non si capisce con chi si lamenta, perché sono, è il Parlamento che non fa questo, tutti conniventi, tutti omertosi, non vogliono fare questo, introdurre il reato di tortura per le forze dell'ordine, un reato che vale soltanto per le forze dell'ordine. Vabbè, l'altro fatto grave che è sempre successo in carcere, questo è ancora grave e ci richiama a ciò che abbiamo detto nelle trasmissioni precedenti in maniera anche ossessiva, perché è una cosa pesantissima. Dunque, il fatto è questo: vi ricordate un tempo fa, come è successo un po' in tante carceri, no? C'è stata un'ondata di protesta. E in queste proteste, qualche piccole proteste, nel carcere Cagliaritano del Buoncammino, un detenuto ha dato fuoco al materasso. Niente, una cosa che succede. Qualcuno lo fa, hanno spesso. È una delle proteste individuali che purtroppo, perché sono individuali, sarebbe meglio fare proteste collettive. Ma questa persona stava nel centro diagnostico e terapeutico, cioè il centro clinico del Buoncammino, e ha fatto, non sapendo come esprimere la propria protesta, ha dato fuoco al materasso. Non è successo niente, non si è fatto nessuno male, eccetera, eccetera. Però che cosa gli è successo a questo detenuto? L'hanno trasferito nell'OPG, nel manicomio criminale di Montelupo Fiorentino. Pensate un po', questo detenuto finiva di scontare la pena il prossimo 7 luglio, quindi 2 mesi alla fine della pena gli mancano, 2 mesi finiva la pena. Adesso l'hanno trasferito nel manicomio criminale OPG di Montelupo Fiorentino. Il tempo si ferma per questa persona. Sapete, l'abbiamo detto mille volte, il tempo nell'OPG non conta, non passa, nei giorni che stai lì non contano per la consunzione della pena. Quindi questi 2 mesi può darsi che diventino anni, decenni per questa persona, il famoso ergastolo bianco. È stato, siccome aveva dato fuoco al materasso, è stato trasferito nell'OPG. Ora la cosa è denunciata da qualcuno qui, dice eccetera eccetera, beh, la cosa, l'uso della psichiatria, si sembra essere tornati agli inizi degli anni 70, agli inizi degli anni 70, proprio nel 69-71, quando dal 69 al 73 ci fu una grossa ondata di rivolte, proteste nelle carceri, che poi in qualche modo strappò, ottenne la riforma del 75, quel movimento di lotta ha ottenuto quei pochi diritti che si hanno oggi in carcere, non sono stati regalati né dal Parlamento, che figuratevi, non avrebbe mai fatto una cosa del genere, né da nessun altro, sono stati strappati con la lotta, dalle rivolte dei detenuti molto intense nei primi anni 70, che poi sono prolungati, perché poi quella riforma del 75 era ben altra cosa di quello che chiedevano i detenuti, e quindi hanno continuato la loro protesta, hanno ottenuto altre cose, comunque sia, insomma, hanno smosso un po' le acque. E rispetto a prima, prima c'era, nemmeno tutti i giornali potevano entrare in carcere. Sapete che cosa era la situazione carceraria italiana di prima della riforma del 75? I giornali non entravano in carcere, i giornali veniva tagliata la cronaca, la censura c'era per tutti, potevi scrivere solo una lettera al giorno, insomma non potevi tenere libri, cioè era una cosa assurda. Va bene, insomma, prima in quegli anni lì, no, la repressione di queste proteste, rivolte di massa nelle carceri italiane, veniva fatta a suon di manganellate, botte, eccetera, ed anche utilizzando il manicomio criminale per mandarci i detenuti più attivi, quelli che erano cosiddette le avanguardie di queste lotte, no? Quelli più attivi, che riuscivano a mobilitare gli altri. Che gli organizzatori di queste lotte, di queste rivolte, venivano mandati e in genere venivano messi in letto di contenzione proprio per distruggere la loro personalità, di queste persone. era stata una cosa, un periodo veramente feroce di scontro tra detenuti e Stato in questo paese, con delle forme tremende fatte che non avevano nulla a che invidiare ai peggiori regimi dittatoriali. Bene, adesso con questa sembra tornati quei tempi, insomma, questo per una protesta di un detenuto che ha dato fuoco, ma appena all'inizio, poi non, manco qui non si capisce, anche non è che ha preso fuoco tutta la cella, ha iniziato a dare fuoco, era soltanto una protesta così, è stato spento subito, non è... ebbene l'hanno trasferito nel manicomio criminale di Montelupo Fiorentino. È una cosa gravissima, ne parlano anche i giornali sardi di questa cosa allucinante, però è successo. E allora bisogna assolutamente anche qui, visto che no, c'è questo provvedimento di chiudere gli OPG, però ossia i manicomi criminali, ossia non chiuderli ma diffonderli nelle regioni, trasformare questi sei manicomi criminali in tanti piccoli manicomi criminali che dovrebbero essere migliori, però anche qui non c'è un dibattito che si sta sviluppando, il meccanismo del controllo psichiatrico, che è una forma veramente devastante, primitiva, brutale, ultrafascista, la peggiore, molto peggio controllo psichiatrico, è molto peggio di tutte le malversazioni di carattere fascista, è una cosa allucinante che c'è ancora nel sistema penitenziario italiano. Ebbene, questa cosa qui sta riprendendo piede, questo fatto è molto grave perché significa che non si è capito, non sembra che ci sia la volontà di chiudere il manicomio criminale inteso come spazzare via il controllo psichiatrico, cioè il fatto che lo Stato controlli anche la tua mente oltre a controllare il corpo, e quindi decida se tu puoi essere, a prescindere dalla pena, dalla condanna, se tu puoi essere reinserito nella società oppure se devi rimanerne separato, cioè questa allucinazione di potere assoluto, totale, totalitario. Il peggior regime totalitario è quello psichiatrico, il controllo della mente, no? Una cosa inaccettabile. Ebbene, siamo ancora a questo punto, è una cosa gravissima, come dire, che si sarebbe auspicabile che ci si mettesse in moto, insomma, facendo dibattiti, manifestazioni, insomma, portando in mezzo alla gente il problema di abolire il controllo psichiatrico, proprio questa bruttezza, questa bruttura, non ci sono le parole per definirla, è la cosa peggiore che gli umani hanno costruito per devastare altri umani, e quindi è la cosa peggiore in assoluto che c'è, è la peggiore tortura questa qui che c'è veramente. Ne abbiamo parlato degli OPG, che appunto di questo ergastolo bianco, gente che entra dentro perché ha mandato a quel paese una guardia, c'è entrata a 20 anni e a 60 anni stava ancora là dentro, quindi pensate che inferno, in maniera con letti di contenzione, elettroshock, insomma, l'inferno che non sta nella Divina Commedia di Dante, ma sta su questa terra, spesso a pochi metri dalla casa che abitiamo, e quindi è necessario interessarci di queste cose. Bene, ci siamo fatti, abbiamo visto che si sono fatti intanto le 16, quindi dobbiamo assolutamente interrompere la trasmissione, cioè finisce la trasmissione di questo mercoledì. Noi ci sentiamo mercoledì prossimo, sempre dalle 15 alle 16, sempre dalle frequenze di Radio Onda Rossa,